Pagine per il futuro. Bentrovati all'ultima puntata di Pagine per il futuro, il progetto del Piccolo Teatro di Milano e Radio 24 che per tutta l'estate ha proposto in riduzione radiofonica alcuni classici della letteratura, drammatizzati da attori del piccolo e commentati da personaggi della cultura, dello spettacolo e della politica. Nell'appuntamento di oggi riascoltiamo una selezione delle interviste al presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Giuseppe Mussari, che ha parlato di 20.000 leghe sotto i mari, al presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, che ha ricordato la sua lettura giovanile del Candido di Voltaire, e a Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera dei Deputati, che ha raccontato Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Partiamo dal Candido di Voltaire nell'intervista di Daniele Biacchessi a Livia Pomodoro. La voce narrante è di Tommaso Minniti. C'era in Vestfalia, nel castello del barone di Thunder ten Tronckh, un giovinetto che aveva ricevuto dalla natura i più dolci costumi. Gli si leggeva il cuore nel volto. Egli univa ad un assai buon giudizio una gran semplicità di cuore, ragion per cui credo lo chiamavano Candido. I vecchi servitori di casa sospettavano che egli fosse figliolo della sorella del signor barone e di un onesto e buon gentiluomo dei dintorni che la signora in questione non volle mai sposare, perché egli non aveva potuto provare più di 71 quarti di nobiltà, essendo andato perduto il resto del suo albero genealogico causa ingiuria dei tempi. Il signor barone era uno dei nobili più potenti della Vestfalia, perché il suo castello aveva porta e finestre e in più una sala con gli arazzi. Tutti i cani dei suoi cortili formavano, in caso di bisogno, una muta di caccia. I suoi staffieri diventavano i suoi cacciatori e il vicario del villaggio suo grande elemosiniere. Tutti gli davano dell'eccellenza e ridevano di gusto quando raccontava delle storie. La signora baronessa, che pesava circa 160 chili, si attirava per questo un grandissimo rispetto e faceva gli onori di casa con una dignità che la rendeva ancora più rispettabile. La di lei figlia Cunegonda, a 17 anni, era ben colorita, fresca, grassotta, da fare gola. Il precettore Pangloss era l'oracolo della casa e il giovane Candido ne ascoltava le lezioni con tutta la fiducia della sua età e del suo carattere. Pangloss insegnava la metafisico teologo cosmologo nigologia. Egli dimostrava con estrema chiarezza che non si dà effetto senza causa e che in questo mondo, il migliore dei mondi possibili, il castello di sua eccellenza, il barone, era il migliore dei castelli possibili e madama la baronessa la migliore di tutte le baronesse possibili. È dimostrato, diceva egli, che le cose non possono essere altrimenti, perché essendo tutto fatto per un fine, tutto è necessariamente fatto per il miglior fine possibile. Un giorno Cunegonda, mentre passeggiava nei pressi del castello in un boschetto a cui si dava il nome di parco, scorse tra le fratte il dottor Pangloss, che impartiva una lezione di fisica sperimentale alla cameriera di sua madre, graziosa e ubbidientissima brunetta. Cunegonda tornò indietro tutta agitata e meditabonda, pensando a Candido. Ella l'incontrò mentre ritornava al castello e arrossì. Anche Candido arrossì. Ella gli diede il buongiorno con voce incerta. Anche Candido le parlò senza essere certo di quello che diceva. Il giorno dopo, congedandosi dal fine pranzo, Cunegonda e Candido si ritrovarono dietro un paravento. Cunegonda si lasciò cadere il fazzoletto. Candido lo raccolse, ella innocentemente gli prese la mano, innocentemente gli la baciò con una passione, con un trasporto, con una grazia particolarissima. Le loro bocche si incontrarono, i loro occhi si infiammarono, le loro ginocchia cedettero, le loro mani si avvinghiarono Il signor barone di Thundertentronk passò accanto al paravento e, vedendo questo effetto, immaginandone la causa, cacciò via dal castello Candido a pedate. Cunegonda svenne, fu schiaffeggiata dalla baronessa appena rinvenne, ed ogni cosa finì sotto sopra nel più delizioso e migliore dei castelli possibili. Livio Pomodoro ha scelto questo libro, che solo apparentemente è un romanzo, in realtà è un trattato filosofico sulla società di quegli anni, ma che in qualche modo è ancora molto attuale, come devo dire tutti i libri che presentiamo con tutti gli ospiti che abbiamo avuto. Ottimismo e pessimismo, questo è solo uno dei temi che poi magari ci condurrà. Lei è pessimista o ottimista? Ah, io per mia natura sono ottimista, ma direi che la lettura giovanile del Candido è stata per me perlomeno una lettura di formazione, una lettura interessante per la descrizione di un concetto filosofico, intendiamoci, perché era Leibniz che sosteneva appunto la tesi del mondo migliore possibile. E però attraverso questo racconto un po', anzi molto onirico di Voltaire, c'è dentro, Voltaire lo scrisse che aveva 60 anni, quindi non era un ragazzo che scriveva da ragazzo, ma lo scrisse con l'animo da ragazzo e soprattutto lo scrisse con l'animo di colui che aveva avuto anche delle disillusioni, e tante delle sue affermazioni nel corso del libro, che peraltro è divertentissimo e per alcuni versi anche esilarante, sono affermazioni molto pesanti sulla società dell'epoca, ma non è solo perché è di quell'epoca, ma perché, diciamo così, è una critica universale. E noi oggi, perlomeno io oggi, la vedo così. All'epoca, quando ero ragazza, questo libro mi incuriosì tantissimo, e questa dicotomia tra ottimismo e pessimismo di cui lei ha parlato mi fece dubitare del mio eccessivo ottimismo, ma quando si è ragazzi si deve necessariamente essere ottimisti. Dopo Livia Pomodoro è stato ospite Fausto Bertinotti. L'ex presidente della Camera dei Deputati ha portato con sé il suo libro dell'infanzia, Il vecchio e il mare, di Hemingway. È la storia di un vecchio pescatore di nome Santiago. Quando si troverà in mare a fronteggiare il più grande pesce spada mai immaginato, riuscirà ad ucciderlo, ma non a riportarlo a riva, perché gli squali lo divoreranno. Eppure, secondo Bertinotti, Santiago non è un perdente. Io mi intendo di poche cose, ma di una cosa mi intendo molto, della sconfitta. Di questo, diciamo, sono un esperto, un esperto del ramo. E quindi da qui il viatico di questa lettura. Quando lo lessi da ragazzo, naturalmente non sapevo che questo sarebbe stato il destino, ma quello che mi affascinò allora continua a affascinarmi adesso, ed è esattamente la riflessione sulla sconfitta. Io penso che non ci sia un'opera letteraria, tra quelle che io conosco almeno, che sia così profondamente costruita in un corpo a corpo con la sconfitta nella vita umana. Naturalmente già sul termine sconfitta bisogna un po' intendersi, perché siccome è inflazionata vorrei che non venisse interpretata nel senso banale della moneta corrente, che è la sconfitta nel gioco e nella competizione, anche nella competizione sportiva, iscritta ovviamente nella competizione medesima, uno vince, l'altro perde, oppure nella banalità della politica quotidiana, in cui la politica, pur di non accettare il rischio della sconfitta, si suicida. Io penso che invece noi dobbiamo riflettiamo, e Hemingway ci invita a riflettere, sul rapporto col destino. La sconfitta in rapporto col destino. In realtà l'elemento secondo me affascinante è che Hemingway scopre dentro la sconfitta la resurrezione. Mi stai uccidendo, pesce! Pensò il vecchio. Ma ha il diritto di farlo. Io non ho mai visto nulla di grande. È bello, è calmo, è nobile come te. Fratello, vieni a uccidermi. Non mi importa chi sarà a uccidere l'altro. Il vecchio è portatore di un senso dell'esistenza, che si traduce anche in questo combattimento. È, come è stato detto, è un salao. cioè è uno sfortunato. I giovani oggi userebbero un'altra parola, è proprio sfortunato, sfortunato. Cioè è come predestinato alla sfortuna, no? Tanto è vero che fa 83-84 giornate senza prendere pesce, quindi capite bene. Povero, non prende pesci. E quindi si potrebbe dire che è iscritto nel suo destino la sconfitta. Ma non è vero, non è vero. Infatti combatte ad armi pari contro il pesce spada. Tra lui e il pesce spada c'è un combattimento, lo dice il vecchio, lo dice Santiago. Io non ti prendo, non ti voglio sconfiggere per venderti, per mangiarti. Io ti voglio sconfiggere. Sì, e poi è un combattimento, o muoio io o muori tu. È giustificata la domanda, ma è vera sconfitta? No, infatti questo è il punto. Il punto stupendo, per tutti quelli che hanno a che fare con la sconfitta, stupendo, perché Hemingway dice, guarda, che se tu hai combattuto davvero, e cioè tu hai fronteggiato il destino, questo è il punto che ti dà dignità, è quello che ti dà il senso dell'esistenza, ed è questo che lui fa. Raccolse tutto il dolore e ciò che gli restava della sua forza e dell'orgoglio da tanto tempo sopito, e lo pose contro l'agonia del pesce. E il pesce si accostò al suo fianco e nuotò con garbo sul fianco, sfiorando quasi col rostro il fasciame della barca, e si avviò a oltrepassarla, lungo, profondo, largo, argenteo e striato di viola e interminabile, nell'acqua. Il vecchio lasciò cadere la lenza e vi posò sopra il piede e alzò la fiocina più alta che poté e la lanciò con tutta la sua forza e la nuova forza che aveva allora trovato nel fianco del pesce, dietro la grande pinna pettorale che si alzava nell'aria giungendo l'altezza del petto dell'uomo. Sentì il ferro conficcarsi e si appoggiò sopra e lo immerse più profondamente e poi lo spinse con tutto il peso del suo corpo. Allora il pesce tornò in vita, recando in sé la sua morte, e si librò alto, fuori, nell'acqua, mostrando tutta la grande lunghezza e larghezza, e tutta la sua forza e la sua bellezza. Parve restare sospeso nell'aria sul vecchio, nella barca. Poi precipitò in acqua, in un crollo che coprì di spuma il vecchio e tutta la barca. Il vecchio guardò attentamente, con quel po' di vista che gli restava. Poi diede doppia volta alla lenza della fiocina sulla bitta a prua e si prese la testa fra le mani. La voce narrante era di Ivana Lovisio. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico. Riprendiamo dopo la pausa con l'intervista a Giuseppe Mussari. Pagine per il futuro. La letteratura per ragazzi è ricca di capolavori che fanno sognare i bambini. E Jules Verne è uno degli autori più importanti di libri di formazione, in primo luogo con il suo 20.000 leghe sotto i mari. È questo il libro scelto da Giuseppe Mussari, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, insieme all'altro grande capolavoro di Jules Verne, L'isola misteriosa, nelle voci di Matteo De Moiana e Filippo Renda. Appoggiato allo spigolo del tavolo, le braccia conserte, lo sconosciuto ci osservava con profonda attenzione. Io ho esitato molto e alla fine ho pensato che il mio interesse potesse accordarsi con quella pietà naturale a cui tutti gli esseri umani hanno diritto. Voi resterete a bordo del mio battello, perché il fato vi ci ha gettati. Voi sarete liberi, e in cambio di questa libertà io vi imporrò una sola condizione. È possibile che in certi imprevisti avvenimenti mi obblighino a chiudervi nelle vostre cabine per qualche ora, o per alcuni giorni, a seconda dei casi, poiché non desidero assolutamente far ricorso alla violenza. Mi attendo da voi, in tali frangenti, un'obbedienza assoluta. Facendo così, io copro ogni vostra responsabilità e vi sollevo da ogni vincolo, poiché sarà mia cura mettervi nell'impossibilità di vedere cose che non dovete assolutamente vedere. C'era dunque da pensare che a bordo succedessero cose quantomeno singolari, che non dovevano essere viste da persone che non si fossero poste fuori delle leggi umane. Fra le sorprese che l'avvenire mi riservava, ciò non doveva essere la minore. Pensavo che lo sconosciuto mi avrebbe teso la mano per suggellare il patto. Non fece niente. Provai dispiacere per lui. Un'ultima domanda, soggiunsi vedendo che quell'essere incomprensibile accennava a ritirarsi. Dite, signor professore. Con quale nome posso chiamarvi? Signore, io per voi non sono che il capitano Nemo, e i vostri compagni e voi non siete per me che i passeggeri del Nautilus. Allora, Giuseppe Mussari, perché Jules Verne, o Giulio Verne, come lo chiamavamo quando da piccoli non conoscevamo ancora il francese, Jules Verne, l'ha appassionata? Bella. Il perché sta dentro le cose che abbiamo ascoltato. Un uomo che nell'Ottocento immaginava e scriveva di un futuro, in quel momento assolutamente non attuale, ma che passo dopo passo diventava attuale. Quindi il privilegio è stato quello di leggerlo prima e adesso, riscontrando che quello che andava raccontando poi diventava un fatto. Ma restano comunque pagine per il futuro? Sì, è ovvio che su una domanda del genere la riflessione è sulla rilettura, non sulla lettura. La lettura da ragazzi è una lettura purtroppo su testi tagliati, rimareggiati, ma una lettura divertente, una lettura appassionante. La lettura da semianziani è una lettura un pochino diversa. Sicuramente sì, perché c'è dentro questi due libri un'ansia distonica. Per un verso sono libri di grandi viaggi e di grandi libertà in luoghi però terribilmente chiusi e claustrofobici, come può essere un'isola, come può essere un sommergibile. E in entrambi c'è questa ansia di liberarsi degli altri, ma nello stesso tempo il desiderio di stare insieme agli altri. Pagine per il futuro. Riprendiamo con le avventure del capitano Nemo, questa volta nelle pagine dell'Isola Misteriosa. Prima però... Forse è d'obbligo anche fare un paragone tra l'oceano e il sistema finanziario attuale. E allora l'oceano, c'è in fondo un'etica della persona, un'etica profonda che anche di fronte ad azioni spregiudicate, di fronte ad azioni magari incomprensibili, però al fondo bisogna recuperare quest'etica, vale anche per il sistema finanziario. No, il sistema finanziario in questo momento sta dando, parlo del sistema finanziario mondiale con l'esclusione delle banche italiane. Sta dando la peggiore prova di sé. E purtroppo non è semplice distinguersi. Non è semplice distinguersi, malgrado le banche italiane facciano un mestiere diverso, non siano responsabili di tante delle cose che sono successe. Ma se non lo ritrova alla svelta il bandolo della matassa, il rischio poi è per tutti noi. Ci sono i calamari giganti anche nel sistema finanziario. Troppi. E ogni tanto verrebbe voglia di sperare che da qualche parte ci sia un capitano Nemo. Ma il capitano Nemo chi può essere? Noi. Non certo una persona può essere. No, noi. Non c'è un individuo in grado. Noi dovremmo ritrovare il senso fondante delle regole. Questo senso fondante ancora non riusciamo ad individuarlo. C'è un bisogno profondo di regole nuove. Il problema è che il diritto è una... sovrastruttura, come ogni altra sovrastruttura, ha un senso nella misura in cui ci sia un patto sociale, un accordo di fondo tra le persone, e noi ne abbiamo smarrito le fondamenta. Gli interessi hanno preso il sopravvento sui valori? L'avidità, non gli interessi. Gli interessi sono legittimi o illegittimi, l'avidità è sempre illegittima. Un pallone, trascinato come una palla in cima a una tromba d'aria e ghermito dal vortice della sua colonna, percorreva lo spazio, girando su se stesso come se fosse stato risucchiato in una specie di maelstrom aereo. Sotto il grosso pallone oscillava una navicella che ospitava 5 passeggeri. Verso mezzogiorno l'aerostato planava a soli 600 metri al di sopra del mare. In tanto frangente, i passeggeri lanciarono gli ultimi oggetti che ancora facevano peso, i pochi viveri che avevano conservato, perfino i minuscoli utensili che avevano nelle loro tasche. «Terra! Terra!» Ma quella terra si trovava ancora a 30 miglia sotto vento. Ci voleva almeno un'ora per raggiungerla, un'ora! Il pallone radeva ormai la superficie del mare. Già le creste spumose delle grandi onde avevano lambito più volte le corde che strascinavano in basso e l'aerostato non si risollevava più che per ricadere in giù, come un grande uccello ferito alle ali. Mezz'ora più tardi, la terra non era più che a un sol miglio, ma il pallone, sfatto, floscio, spiegazzato malamente, non conservava che un poco di gas nella sua parte superiore. I passeggeri, aggrappati alle corde, pesavano troppo per lui e furono schiaffeggiati dalle onde. Fu allora che l'involucro si piegò a forma di saccoccia e il vento vi si infilò, spingendolo contro la costa come una barca a vela. All'improvviso, 4 urla echeggiarono angosciose. L'aerostato, per qualche misteriosa ragione, rimbalzava verso l'alto, percosso da un formidabile colpo di mare, e raggiungeva in un baleno i 500 metri di altezza, come se fosse stato alleggerito di un'altra parte del suo peso. Lassù, spinto da un forte refolo di vento, cominciò a filare parallelamente alla costa. Infine, 2 minuti più tardi, ripiombava verso terra e rapidamente si afflosciava definitivamente sulla spiaggia, lontano dalle onde. I passeggeri, aiutandosi l'un l'altro, si liberarono dalle corde. Il pallone, liberato dal loro peso, fu ripreso dal vento e, come un uccello ferito che ritrova un istante di vita, sparì nel cielo, chissà dove. L'isola misteriosa, i naufraghi su un'isola deserta, un classico della letteratura, un classico anche del cinema, fino all'ultimo Castaway. Allora qual è, andando verso appunto la conclusione purtroppo di questo dialogo, quello che possiamo cogliere da questi personaggi, da queste realtà, da queste vicende? Cosa ci insegnano per noi adesso in questa situazione? Ovviamente un po' di crisi finanziaria, un po' di crisi economica, un po' di crisi anche morale. Se lo rileggiamo oggi con quel poco di esperienza che uno può avere a 50 anni, non c'è una tana che ci salva. In fondo l'isola misteriosa e la tana di Kafka non sono molto diversi. Non c'è, non esiste. Comunque il bisogno dell'altro ci porta a doverci confrontare con una complessità che non possiamo ridurre alla semplicità apparente di un'isola spersa nell'oceano. La conclusione più personale e un po' eccentrica probabilmente è il titolo di coda di Mediterraneo di Salvadores. In tempi come questi, la fuga è l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. Il progetto Pagine per il Futuro termina con questa trasmissione speciale. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.